Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia. Sono le 17.10, quindi più o meno un'ora e mezzo di tempo per raccontarvi i fatti economico-finanziari della giornata. Sono tanti, sono tutti molto interessanti. Ci occuperemo di politica economica italiana, ci occuperemo di mercati finanziari naturalmente come sempre. Andremo anche negli Stati Uniti perché c'è una nuova riunione già iniziata della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che potrebbe decidere di accelerare sul tapering, cioè sul programma di riduzione degli stimoli monetaria all'economia americana. Ne parleremo diffusamente perché naturalmente guardiamo con grande attenzione agli Stati Uniti, alle mosse di politica monetaria, anche se, come sapete, nell'Eurozona e in altre parti del mondo le decisioni delle istituzioni finanziarie sono di tutt'altro tenore. C'è un mantenimento ancora dell'allentamento monetario molto forte, molto ampio, perché in altre parti del mondo appunto l'economia ancora non riprende quota, nella fattispecie appunto nell'Eurozona, e per non parlare poi dell'Italia. Sarà un tema che affronteremo nel corso della trasmissione. Parleremo poi di un settore, lo faremo tra poco proprio come primo approfondimento di Focus Economia. Parleremo della crescita record nel settore delle crociere. So che magari a dirla così qualcuno potrebbe anche infastidirsi, perché chiaramente la contestazione che arriva in questo momento con i posti di lavoro che sono sempre meno, figuratevi se possiamo farci una vacanza, figuratevi se possiamo farci la crociera. In realtà questo è un comparto che va benissimo, che dà come contributo economico diretto al nostro paese oltre 4 miliardi e mezzo di euro. Questo è un dato che si riferisce al 2013, e pensate che l'Italia è la prima destinazione in Europa con 7 milioni di passeggeri che sono transitati lo scorso anno in Italia. Ma tutti questi dati, queste cifre implicano anche qualcosa di molto più ampio, e più tardi lo commenteremo con il presidente dell'Associazione Europea delle Imprese di Settore, che è Pier Francesco Vago. La borsa piuttosto piatta, vedo nessun movimento particolare degli indici stamattina. L'Europa andava un po' meglio, poi complice anche fiacca dell'apertura, l'apertura fiacca di Wall Street. Abbiamo adesso il segno meno sugli indici statunitensi, anche l'Europa ha rallentato il passo. Ma appunto, come vi dicevo, i mercati europei e il mercato americano aspettano le decisioni della Federal Reserve, ma soprattutto quello che la Federal Reserve dirà in termini di prospettive di crescita della economia appunto americana. Si ipotizza che possano essere diffuse delle stime di revisione al ribasso della crescita statunitense, per cui ecco il motivo per cui il mercato non prende più di tanto delle posizioni particolarmente forti. A Milano c'è Mediaset che corre, c'è una notizia appunto che riguarda il gruppo del Biscione, ve la spiegheremo, una notizia che riguarda le attività spagnole della compagnia appunto italiana. Vi racconteremo poi che cosa è successo. Per quello che riguarda poi Monte dei Paschi, che abbiamo monitorato molto attentamente, continuiamo a monitorare perché è in corso uno dei più importanti aumenti di capitale appunto attuali, visto che ce ne sono diversi in corso. Monte dei Paschi ieri ha fatto più 15%, oggi lascia sul campo il 5%, ma è assai probabile che fino a quando l'operazione straordinaria sul capitale non si conclude vedremo ancora questa volatilità così accentuata. Non è tuttavia il peggior titolo di oggi, perché è Yux, il gruppo leader nel settore delle vendite di abbigliamento online, che sta perdendo, lasciando sul campo il 5%. Un altro tema che approfondiremo nel corso di Focus Economia è una notizia che è arrivata oggi e che è assai probabile che se l'aspettavano con grande attesa appunto gli imprenditori, perché la Commissione Europea ha deciso di aprire formalmente la procedura di infrazione contro l'Italia perché ritiene che non applichi correttamente la direttiva europea sul ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Lo sapete, anche se il governo ha preso delle iniziative per sbloccare questi pagamenti, evidentemente questo non toglie che l'Italia continui ancora a disattendere comunque i tempi previsti da questa direttiva europea. Le imprese dovrebbero essere pagate a 30 e 60 giorni, in Italia si arriva anche fino a 210 giorni, e questo, come sapete, fa saltare aziende, posti di lavoro, e quindi è una situazione che ormai non è più sostenibile. E oggi si è ingaggiata anche questa battaglia a distanza politica fra commissario Tajani e il ministro dell'economia Padoan. Ne parleremo più tardi proprio con Tajani. Abbiamo tante altre cose da raccontarvi. Torneremo anche sulla questione argentina, di cui abbiamo parlato diffusamente in questi giorni, di questo probabile, presunto, forse ipotizzato nuovo default tecnico, appunto, che il paese guidato da Cristina Kirchner potrebbe avere. È ritornato ancora a galla il tema del default della bancarotta del 2001. Si torna a parlare di questa oggi, dopo averne parlato per diversi giorni, per capire le implicazioni economiche ed internazionali di questa notizia che arriva, per la verità, da una decisione presa dalla Corte Suprema americana. Oggi cercheremo di ritornare sulla questione dei risparmiatori italiani che all'epoca investirono 14 miliardi di dollari in titoli di Stato argentini, che rimasero con il cerino in mano, intraprendendo poi in questi anni varie iniziative per cercare di recuperare i loro soldi, e vedremo appunto più tardi che cosa vuol dire per loro questa nuova notizia che è arrivata appunto l'altro giorno. Questa è un po' la sintesi dei temi principali di oggi. Se volete commentare con noi i fatti del giorno, il modo per farlo lo conoscete: scriveteci dei messaggi al 349-238-6666. Adesso le notizie in breve della giornata. Allora, cominciamo come sempre con le materie prime. Abbiamo il petrolio a 106,1 dollari al barile, l'oro in leggero calo sulle contrattazioni sui mercati internazionali a 1270 dollari l'oncia. C'è una notizia che arriva oggi da Londra: il mercato dell'oro si preparerebbe a cambiare le regole, che sono quasi centenarie, che ne regolano il meccanismo più importante, quello della determinazione del prezzo. Il World Gold Council ha organizzato per il 7 luglio a Londra un forum per esplorare la riforma del London Gold Fix, cioè il sistema che molti anni fissa il prezzo del metallo tramite due aste quotidiane. E sono due aste quotidiane organizzate da quattro sole banche. Sono Barclays, HSBC, Societe Generale e Scotia Bank. Questo sistema è sempre ormai da tempo più esposto alle critiche per la sua mancanza di trasparenza, un po' come funzionava per l'Euribor, lo ricorderete, e il rischio di possibili manipolazioni. E l'interesse delle autorità di controllo, appunto in primo luogo dell'autorità britannica di vigilanza dei mercati, è aumentato dopo l'emergere proprio degli scandali nel mercato dell'Euribor, che ha portato a multe milionarie per diversi degli istituti coinvolti. I vertici del gruppo americano General Electric ci riprovano e nei prossimi giorni saranno a Parigi per presentare una nuova offerta, un'offerta migliorata per l'acquisizione delle attività nell'energia di Alstom, il colosso francese per il quale si è scatenato anche il governo con misure appunto protezionistiche, proprio nel tentativo di difendere la proprietà di questa azienda. Peraltro Siemens e Mitsubishi Heavy Industries starebbero lavorando ad un'offerta congiunta da 1.000 miliardi di yen, sono circa 7 miliardi e 250 milioni di euro, per acquisire il controllo degli asset delle turbine a gas e a vapore di Alstom, in modo da poter dividersi il business energetico di questa, a quanto pare appunto, molto contesa conglomerata francese. Parlavamo delle crociere e questo discorso un po' ci porta anche ad un'altra notizia che è stata diffusa oggi e che periodicamente, questo è un rapporto che viene diffuso ogni anno proprio in questo periodo, parliamo del World Report di Capgemini ed è praticamente il monitoraggio sui più ricchi del mondo, tanto per dirla appunto con una sintesi estrema. C'è nel 2013 un vero e proprio record di paperoni, beati loro, perché i ricchi diventano sempre più ricchi, non si capisce come questo si possa verificare, con patrimoni a livelli mai visti prima, proprio grazie alla ripresa economica e alla crescita appunto delle borse. In base al World Report di Capgemini e un'altra appunto società che si chiama RBC Wealth Management, gli high net worth individual, cioè la fetta della popolazione che dispone di almeno $1 milione di asset da investire, sono aumentati di 1.760.000 lo scorso anno, nel mondo, chiaramente parliamo nel mondo, arrivando così a 13,7 milioni di persone. C'è stata quindi una crescita, pensate, di ben il 15%, e la loro ricchezza complessiva è salita del 14% a 52,6 miliardi di dollari ed è continuata la competizione fra questi ricconi fra Nord America e Asia Pacifico per la leadership. Allora, lo dicevo prima, ne parleremo poi al termine della trasmissione, vi anticipo già che intanto Standard & Poor's oggi ha tagliato il rating dell'Argentina a CCC- da CCC+, con outlook negativo. Questo annuncio segue proprio la decisione di lunedì scorso della Corte Suprema americana che ha confermato una sentenza di tribunale di grado inferiore che vietava al paese latinoamericano di effettuare pagamenti sul debito ristrutturato dopo il suo default del 2001 senza rimborsare anche i fondi Edge che invece avevano rifiutato appunto questo accordo. La bocciatura di Standard & Poor's riflette a questo punto il nuovo maggiore rischio di default, ci mancherebbe pure che l'Argentina adesso ne facesse un altro, ma a quanto pare questa è un'ipotesi presa seriamente in considerazione dalla comunità finanziaria internazionale. E intanto, in reazione a tutto questo, abbiamo visto in questi giorni forti movimenti di borsa. Due giorni fa il crollo della borsa argentina, meno 12% nel corso della seduta, e poi forte fibrillazione anche del mercato obbligazionario. I bond della Repubblica Argentina con scadenza 2033 stanno andando a picco, con un calo da 74 a 71,5 centesimi e un rendimento che è volato al 12,6%. Sta naturalmente pesando questa nuova incertezza legata al piano di swap, di scambio appunto dei bond detenuti da alcuni fondi speculativi in diritto argentino dall'attuale diritto statunitense. E quindi insomma questa vicenda è destinata probabilmente ad altre ripercussioni, non solo di carattere politico ma soprattutto finanziario ed economico. Una dichiarazione di oggi della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha detto: non c'è necessità di cambiare il patto di stabilità, tutta la flessibilità di cui abbiamo bisogno per superare i problemi è già contenuta nell'attuale patto. Chissà che pensa di questo pensiero Matteo Renzi, che invece vorrebbe, come sapete, un pochino rendere più elastico questo patto. Ho parlato stamane col ministro dell'economia, ha proseguito la Merkel, Sigmar Gabriel, e siamo d'accordo, la nostra è una convinzione comune. Velocemente ad alcuni rapidi fatti italiani, lo dicevamo, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione contro l'Italia perché ritiene che non applichi correttamente la direttiva europea sul ritardo di pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Oggi il ministro Padoan, riferendosi a questa procedura appunto intrapresa e avviata da parte del commissario uscente europeo Antonio Tajani, ha detto: è una procedura, è sorprendente l'apertura di questa procedura. Ma sentiamo direttamente le parole del ministro. Sono francamente sorpreso, perché se c'è una cosa che il governo italiano ha fatto e anche il precedente governo italiano hanno fatto, è quella di dare una decisa spinta, proprio in ossequio alla richiesta europea, al pagamento dei debiti della PA. Le misure adottate da questo governo rafforzano quelle precedenti, le accelerano, introducono la garanzia bancaria, introducono un ruolo eventuale di cassa depositi, e tutto ciò naturalmente ha un costo fiscale, perché questo aumenta, sia pure in misura temporanea, l'onere del debito in ossequio alle regole europee. E anche se questo comporta una stringenza dei vincoli sempre europei, quindi noi siamo due volte disciplinati, quindi trovo che questa procedura di apertura di infrazione sia incomprensibile. E allora, quella del neo europarlamentare Tajani è una grave strumentalizzazione dell'Europa, è un atto di irresponsabilità contro l'Italia. Questo è stato il commento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozi, e poi approfondiremo, sentiremo direttamente Tajani cosa pensa di tutti questi giudizi. Ma ancora, tornando a Padoan, dobbiamo ricordare che oggi c'è stata una conferenza stampa con il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, nel corso del quale è stato presentato ufficialmente il pacchetto competitività per rilanciare gli investimenti delle imprese del nostro paese e rafforzare quindi la ripresa. Il pacchetto prevede un recupero di 1,5 miliardi per le piccole e medie imprese attraverso tagli alla bolletta energetica, il cosiddetto decreto taglia bollette, che, ha detto il ministro Guidi, assicurerà nell'immediato un alleggerimento di 800 milioni E poi questa cifra, assicurato Guidi, dovrebbe quasi raddoppiare, arrivando ad 1,5 miliardi, quindi un taglio del 10% della bolletta di circa nell'arco, appunto, di circa il 10% nell'arco di 12 mesi. Una nuova soglia minima poi per far scattare l'obbligo d'offerta pubblica d'acquisto sulle piccole e medie imprese. Il decreto legge competitività varato da Ministero dell'Economia e Ministero dello Sviluppo Economico prevede anche la possibilità di introdurre negli statuti di piccole e medie imprese una soglia diversa dal 30% per far scattare l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, una soglia che potrebbe essere molto più ampia, compresa fra il 20 e il 40%, non c'è ancora nulla di più dettagliato, quindi rendere anche le imprese italiane più contendibili, fare evidentemente entrare nuovi capitali attraverso anche queste modalità. C'è anche tutto questo all'interno del pacchetto competitività. E magari con le notizie in breve torneremo fra qualche minuto per raccontarvi altri dettagli di questa giornata. Adesso il primo approfondimento di oggi. Parliamo della cantieristica europea e non solo, che realizza gran parte delle navi simbolo del settore crociere. La cantieristica europea ha registrato nel 2013 un incremento di fatturato del 4,7%. Le compagnie hanno investito oltre 4 miliardi di euro nella costruzione di nuove navi e tutte anche le altre attività di indotto. Attualmente i cantieri europei stanno lavorando alla costruzione di 24 nuove navi, la cui realizzazione sarà ultimata nel 2017 per un valore di oltre 12 miliardi di euro. Risultati eccellenti che confermano la centralità dell'Europa nel business croceristico globale, ma soprattutto la centralità italiana. Allora, commentiamo questi dati che hanno dell'eccezionale. Finalmente parliamo di qualcosa di molto buono per quello che riguarda il nostro paese, cosa che ci capita sempre più raramente. Buonasera, grazie di essere con noi al dottor Pier Francesco Vago, presidente europeo di CLIA, che adesso spiegheremo che cos'è. In italiano è l'associazione che riunisce le principali compagnie del settore. Dottor Vago, buonasera. Buonasera a voi. Spero di aver detto tutto correttamente. Beh sì, CLIA lo chiamiamo CLIA, che sarebbe poi CLIA, l'associazione rappresentanze di tutte le compagnie di crociera nel mondo. Benissimo, allora nel 2013, adesso abbiamo dato un po' un quadro che riguarda l'Europa, poi magari ci torniamo, ma ci racconti un po' meglio invece che cosa è successo in Italia in questo settore, perché i dati sono veramente da record. Sì, diciamo che se guardiamo dall'inizio della crisi economica del 2008, dove abbiamo visto non solo una decrescita, una non crescita in generale dell'economia e soprattutto del turismo, il settore delle crociere ha registrato un numero a doppie cifre, il 43% di crescita come croceristi in Europa in generale. Questo ha portato che in Italia i passeggeri che oggi vanno in crociera abbiano raggiunto i 900.000 di numero, che è un numero sicuramente importante, perciò stiamo parlando di numeri crescenti, e questo chiaramente fa vedere quanto quanto l'industria sia in buona salute. E infatti, allora, tanto per confermare questo che lei ci stava dicendo, 4,5 miliardi il contributo economico diretto, ecco, ci spiega bene questo dato, è dato dall'Italia a tutta l'Europa? Beh sì, allora in questa crescita a doppie cifre abbiamo visto nel 2013 un 4% di crescita come posti di lavoro in Europa, perciò stiamo parlando 340.000 posti di lavoro. Abbiamo visto un ulteriore 4% di contributo economico in Europa, sempre tra diretto e indiretto, stiamo parlando intorno ai 40 miliardi di euro. E questo in Italia viene rappresentato poi con l'eccellenza, perché di questi 40 miliardi, come lei faceva vedere prima, diceva giustamente, stiamo parlando di 4,5 miliardi di contributo economico sul territorio italiano e sui 100.000 posti di lavoro, perciò contributi importanti. Infatti 102.867, tanto per essere precisi, posti di lavoro appunto garantiti dal settore in Italia. Ma quindi la crisi, dottor Vago, non vi ha toccato minimamente? No, sicuramente la crociera è sempre più conosciuta, impiega delle economie di scala, per cui ha una capacità commerciale sicuramente molto vantaggiosa per l'esperienza, al passeggero, al consumatore finale, e questo poi è aggiunto dal fatto che le navi si spostano e vengono sempre più sotto casa, toccando il porto di vicinanza, di residenza. Questo aiuta la crescita dei vacanzieri, perciò dei prospettici vacanzieri che poi diventano croceristi in questa nuova, con navi sempre più nuove, con navi sempre più che diventano destinazione. Mm-hmm. Nel 2013 i porti italiani, guidati da Civitavecchia, Venezia, Genova e Savona, sono stati i leader di mercato. Con quanti milioni di passeggeri imbarcati, dottor Vago? Stiamo parlando di 2.200.000 passeggeri, questi imbarcati, come lei diceva giustamente, ma soprattutto un altro numero importante sono i passeggeri che visitano poi questi porti, che visitano il paese Italia, no? Che è un turismo importante, perciò la crociera che quest'anno nel 2013 ha portato 7 milioni di passeggeri da tutto il mondo, la crociera è sempre più globale, che visitano il nostro territorio. E un'altra cosa molto importante è che il 50% di questi passeggeri che vengono per la prima volta tramite la crociera, tramite l'esperienza via nave, il 50% ritornano e visitano poi il paese con altre tipo di esperienze, perciò portando poi vantaggi importanti. Esatto, a tutto il sistema paese, esatto, soprattutto al turismo, che se fosse appunto in Italia valorizzato come si deve, chissà che cosa, altro che crisi degli ultimi anni, sicuramente non l'avremmo avuta in maniera così, così forte come l'abbiamo registrata. Senta, queste 24 nuove navi che invece attualmente i cantieri europei stanno lavorando, dove sono? Noi abbiamo un know-how molto importante in Europa che ci dà un vantaggio sulle navi che chiamiamo complesse, più complicate, che sono appunto l'industria croceristica, un know-how tutto europeo, anche perché questo know-how integra un tessuto di fornitori e sub-suppliers, appunto sottofornitori, che fanno parte della filiera per poi questi cantieri avere la capacità di costruire queste navi. In Italia, ecco, quale tipo di riflesso c'è da questo pacchetto nuove navi? Delle 24 navi che lei giustamente diceva in Europa, 12 saranno costruite in Italia, ecco. Stiamo parlando appunto di 4 miliardi e mezzo di ordini tra adesso e il 2017. Dottor Vago, questi numeri del 2013 verranno secondo lei confermati quest'anno o avremo anche qualcosa di meglio, visto che comunque, anche se a macchia di leopardo, non è ancora uguale ovunque, ma qualche microscopico segnale di ripresa qualcuno dice di vederlo? Prospetticamente io penso che questi numeri andranno a migliorare, i segnali che abbiamo nel 2014 sono molto confortevoli, anzi rassicuranti, sapendo tra l'altro che questo tipo di turismo rappresenta i 6 milioni e mezzo di passeggeri europei rappresentano solo l'1,5% del turismo europeo, perciò diciamo che se guardiamo e compariamo altre zone del mondo, tipo il Nord America, dove abbiamo sui 12 milioni di passeggeri rappresentato nel 3% della penetrazione del vacanziero, diciamo che ancora possiamo crescere ancora parecchio, possiamo sicuramente raddoppiare. Ecco, speriamo anche che tutto questo porti anche ad un aumento proporzionale, come dire, dei posti di lavoro, visto che già i numeri interessanti ci sono stati nel 2013, l'abbiamo detti prima, ci dice, tanto per dare anche qualche indicazione concreta ai nostri ascoltatori, dove questo settore assume e chi, quali professionalità ricercate, come possiamo dare una mano anche a questi ragazzi che sono per la metà della popolazione giovanile in Italia a casa, disoccupati, dottor Vago? Ma non solo nella cantieristica, come abbiamo visto, non solo nell'industria manufatturiera, ma anche direttamente sulle navi stesse, perciò ci sono delle carriere che vanno dall'alberghiero alla carriera marittima, e diciamo che le compagnie di crociera cercano sempre, offrendo dei percorsi, offrendo una professione con dei corsi adeguati appunto per invogliare i giovani a venire a imbarcarsi e ad avere queste nuove esperienze che poi sono sicuramente remunerative. Infatti, oltre che delle esperienze di vita straordinarie. Senta, è inutile che io le stia a dire che qualche ascoltatore malizioso subito un commento su Schettino lo ha fatto, ma lo lascerei lì dov'è. Piuttosto chi chiede invece come, e questa era una domanda che avevo anch'io in mente di farle, la quotazione di Fincantieri potrà dare ulteriore risalto e visibilità appunto a questo comparto, semmai ne avesse bisogno? C'è bisogno anche di una quotazione in borsa così importante, dottor Vago, per attirare il mercato internazionale, gli investitori internazionali? Beh, come dicevo prima, l'importanza della cantieristica europea è che abbiamo un know-how tutto nostro. Fincantieri sicuramente questo know-how l'ha fatto diventare un'eccellenza, è un qualcosa che gli asiatici, l'estremo oriente vorrebbe imparare, vorrebbe in qualche maniera carpire, ma io raccomando sempre di tenercelo bene stretto. Il risultato di Fincantieri e l'intenzione dell'IPO di Fincantieri sicuramente poi è un grande traguardo che dimostra che è un'industria in ottima salute e che in Italia vede delle radici non solo lontane di professionalità ma anche di capacità di poi farne un'eccellenza italiana, e questo dice tutto per quello che è un orgoglio. E allora vedremo poi tra l'altro quale sarà la risposta della borsa. L'IPO è in corso, il gruppo si quota il 3 luglio, peraltro stamattina di questo argomento lo anticipo già agli ascoltatori, abbiamo parlato anche in diretta il nostro programma Cuore Denari alle 11 con l'amministratore delegato della Borsa Italiana, e poi magari un pezzo di questa intervista ve la riproponiamo. Io intanto ringrazio molto, gli auguro buon lavoro, mi raccomando tenga duro e continui a tener duro così anche in questo settore, perché ci piacerà l'anno prossimo ritornare a parlare di questi risultati appunto lusinghieri che danno lustro anche al nostro paese. Grazie a Pier Francesco Vago, presidente europeo di CLIA. No, però per ultimo ci deve dare la definizione completa di CLIA, dottor Vago. Cruise Line International Association. Perfetto, grazie molte, grazie, buona serata. A voi, buon lavoro. Ci ritrovati in diretta, allora andiamo a dare un'occhiata all'andamento dei mercati finanziari in questa giornata. Abbiamo una chiusura che si avvia ad essere contrastata per l'Europa. Milano sul finale scatta più 0,15% sul FTSE MIB. Abbiamo un quadro invece negativo a Wall Street, c'è attesa per la riunione della Banca Centrale Americana le misure di riduzione degli stimoli monetari, ma concentriamo la nostra attenzione adesso a Piazza Affari. Chiara Di Cristofaro, Radio Corriere, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Debora. Andiamo subito ai casi del giorno. Allora, Autogrill più 2%, Mediaset più 2, Prismian più 1,96%, fatto il podio. Cosa c'è da raccontare su queste società? Partiamo da Autogrill, oggi ha annunciato l'avvio di un buyback, quindi un riacquisto di titoli sul 5% del capitale, e la società ha detto era un'operazione che si attendeva perché era stata già approvata dall'assemblea, e il piano sarà utilizzato o per operazioni sul capitale o per altre operazioni per le quali possa servire uno scambio o una cessione di pacchetti azionari. Questo insomma fa fare un po' delle ipotesi al mercato, ma potranno essere utilizzati anche per i piani di incentivazione azionaria riservate ai dipendenti. Per quanto riguarda Mediaset, il titolo ha iniziato a salire sin dalle prime battute della mattina, oggi è arrivata una notizia, anche questa attesa perché c'erano state indiscrezioni di stampa. Telefonica ha ufficializzato l'offerta vincolante per la quota che Mediaset detiene in Digital Plus. Che è la Pay TV spagnola, sì, ricordiamolo. Esatto, la Pay TV spagnola. Il prezzo è di 295 milioni di euro, ma potrebbe salire a 355 milioni se verranno rispettate una serie di condizioni che Telefonica ha dettagliato. A questo punto sarà la società, sarà Mediaset che dovrà pronunciarsi sulle prossime mosse. Allora, andiamo a vedere invece le maglie nere, o meglio rosse, della giornata. Sul finale Yuxa ha concentrato le sue perdite, il peggior titolo meno 5%. Cosa è successo a questa società che è tra i siti più gettonati soprattutto dai giovani appunto per la compravendita di capi di abbigliamento, ma non solo, Chiara? Innanzitutto è un, diciamo, sono un po' di sedute che il titolo è in un trend ribassista, in realtà è da circa da metà marzo, è stato anche il titolo migliore l'anno scorso, infatti, quindi insomma va visto un magari po'. Qualche operatore per comprare qualcos'altro incassa un po' da Yux, ecco. Esatto, oggi poi è arrivato un report non proprio positivo di Goldman Sachs, che comunque mantiene un giudizio di acquistare, ma dice che non è più la sua preferita. Esatto, sono un po' inferiori alle attese, questo è bastato per far scattare le vendite, mentre su MPS è ancora l'aumento di capitale che pesa, l'aumento da 5 miliardi. Direi di non spenderci altre parole. STM meno 1,61%, Mediolanum in ribasso di un punto, anche Mondadori oggi è stata sotto i riflettori pur non essendo fra le blue chip, Chiara. Sì, ha perso quasi il 7%, c'è stato ieri l'annuncio a sorpresa del collocamento del 12% del capitale e quindi qui il calo è un allineamento al prezzo della vendita delle azioni. Fininvest resta comunque sopra la soglia di controllo, questo va ricordato. Sempre fra i titoli minori, magari vale la pena segnalare una abbandonata sull'altare, come si direbbe in questi casi, la Banca Popolare dell'Etruria, che ha fatto meno 14%. Sì, è il titolo peggiore di tutto il destino, c'è da dire che era una sposa un po' così, un po' titubante, perché già i vertici della Popolare dell'Etruria avevano detto di non poter esprimere un giudizio positivo sull'offerta della Popolare di Vicenza, quindi c'erano state un po' di discussioni, ieri è arrivata insomma la chiusura definitiva del fidanzamento tra le due, ma qualche altro pretendente dovrà arrivare. Abbiamo raccontato dei fatti di borsa di oggi, ma ce ne sono anche tanti altri, perché come sapete, anche se naturalmente come al solito qualche ascoltatore vede sempre la cattiva fede in tutto quello che facciamo e diciamo, raccontare come sta andando il settore delle crociere con la quotazione di Fincantieri non c'entra nulla, nessuno ci ha obbligato a intervistare il dottor Vago sull'andamento della croceristica, è un settore che impiega tante persone, per cui ci è sembrato interessante fare un commento su questo comparto, che casualmente è stato diffuso appunto questo rapporto di questa associazione, come abbiamo detto prima, qualche giorno fa, e mi sembrava anche corretto per una personalità che opera in questo comparto fargli fare un commento su Fincantieri. Noi siamo dei giornalisti, a me chi sponsorizza questo programma non interessa, per cui tanto per chiarire un po' tutto il dibattito che si sta scatenando fra gli SMS, se ci credete bene, se no pazienza. E a proposito di Fincantieri, e non solo, sono tante le società che si stanno quotando in questo periodo, noi abbiamo fatto un commento su questa vivacità della Borsa Italiana questa mattina con l'amministratore delegato di Borsa Italiana, Raffaele Ierusalmi, che sentiamo. Sicuramente c'è un cambiamento strutturale in atto da parte anche del mondo delle imprese e degli imprenditori in Italia, che sicuramente hanno capito quanto importante sia la borsa per finanziare i progetti di crescita che hanno, le loro ambizioni e la voglia di competere a livello globale. Quindi questo sicuramente è un aspetto che credo sia strutturale e non legato a fattori contingenti. Tornando invece a quello che è, diciamo, l'euforia degli ultimi mesi sul mercato italiano in generale, questa è legata a un ritorno in massa degli investitori esteri che avevano abbandonato il mercato italiano durante la crisi legata all'euro e che sostanzialmente oggi ritrovano convinzione e hanno capito anche che l'Italia è un paese comunque solido e che è riuscito a uscire da questa crisi comunque in modo abbastanza rapido. Quindi credo che questi siano gli elementi, ovviamente le valutazioni di molte aziende sono molto convenienti e questo aiuta ovviamente ad attrarre investitori. Due IPO di due società molto grandi nello stesso momento, dottor Ierusalmi, questo affollamento non rischia di essere controproducente, non rischiano un po' di cannibalizzarsi a vicenda? No, allora il tema è che contrariamente a quello che può pensare la gente in generale o l'osservatore che guarda da lontano il mercato, non c'è mai un problema di affollamento, perché gli investitori investono a prescindere sulla base di quelle che sono le storie, sulla base degli interessi che una società può suscitare o generare per loro, quindi è assolutamente irrilevante. Si possono raccogliere in una settimana 10, 20, 30 o 100 miliardi senza nessun problema, i mercati finanziari sono estremamente liquidi e gli investitori in questo momento hanno un forte appetito a investire, quindi da questo punto di vista l'affollamento non è mai un problema, né in questo momento né in altri. C'è c'è la, come dire, questione anche di Poste Italiane, no? Ma guardi, su Poste non posso fare i commenti perché non ho avuto ancora diretti contatti con la società, quindi in questo momento non sarei in grado di dare nessuna valutazione. Certamente è una società che ha cambiato recentemente il suo amministratore delegato, quindi è ovvio che un nuovo amministratore delegato, prima di intraprendere ovviamente questo processo, voglia anche guardarsi intorno e guardare un po' quali sono le condizioni dell'azienda, certo, come di muoversi. Insomma, avanti tutta, nonostante la Tobin Tax e l'imminente aumento della tassazione sulle rendite finanziarie. Sì, questi sono due aspetti purtroppo critici, il mercato ha bisogno di certezze, quindi speriamo che questi provvedimenti siano gli ultimi di una serie che è stata piuttosto lunga e che ha colpito in maniera significativa il mercato finanziario, peraltro senza francamente dei veri motivi secondo me, e in particolare quando si vuole spingere gli investitori a aumentare la componente di investimento verso quello che si chiama l'equity, cioè verso il capitale di rischio, sicuramente aggiungere tasse sul capital gain, aggiungere tasse sulle transazioni finanziarie e aggiungere tasse, mi lasci dire, anche sui conti titoli, perché questa è una cosa che spesso viene dimenticata ma che ha un effetto ovviamente significativo, non è probabilmente la strada più giusta da intraprendere. Quindi ecco, la mia raccomandazione al governo attuale: facciamo attenzione, perché negli ultimi anni gli aumenti sul settore finanziario a livello di tasse sono stati veramente molto molto significativi. Ed eccoci ritrovati in diretta. Allora, abbiamo sentito l'intervista all'amministratore delegato della Borsa Italiana, molto indaffarato giustamente in questo periodo, perché abbiamo tutte queste IPO, Initial Public Offering, cioè società pronte a debuttare in borsa, molto grandi, anche per cui anche stamattina il Sole 24 Ore ha dedicato un lungo approfondimento nelle prime pagine a questo fermento che quantomeno dà un po' di sollievo all'Italia, perché viene vista adesso evidentemente diversamente rispetto a qualche anno fa anche dalla comunità degli investitori internazionali, che si concentravano esclusivamente sullo spread, come sapete, e guardavano null'altro. E invece adesso, insomma, c'è questo appeal creato dalle società italiane che vanno in borsa, e tra l'altro appunto Gerusalmi lo riferiva, parlava proprio di un cambiamento di atteggiamento da parte degli imprenditori italiani, che adesso vanno più volentieri sul mercato dei capitali. Commissario Tajani è con noi, buonasera. Buonasera a tutti. Eccoci qua. Stavo un po' menando il can per l'aia in attesa di perfezionare il collegamento telefonico. Allora, li ha fatti proprio arrabbiare oggi, sia il ministro Padoan che il sottosegretario Gozi. Padoan ha detto che la sua decisione di aprire la procedura di infrazione è sorprendente, e qui Gozi è stato un po' più dirompente, perché ha parlato di una strumentalizzazione scandalosa. Tajani, ci dica un po'. Ma intanto i fatti: oggi la Commissione europea, quindi il collegio dei commissari, ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia perché l'Italia non rispetta i tempi fissati dalla direttiva europea recepita in legge della Repubblica italiana, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di pagare i propri debiti entro 30 o 60 giorni. La denuncia che mi ha spinto a avviare una procedura di urgenza è quella della Banca d'Italia del 30 maggio di quest'anno, è la relazione presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti, nella quale si dice che l'Italia viola il diritto comunitario, perché la Banca d'Italia scrive testualmente, leggo: nel 2013, sulla base delle indagini campionarie, si può stimare che i tempi medi di pagamento delle amministrazioni pubbliche siano stati pari a circa 180 giorni, in lieve riduzione rispetto al 2013. Quando pagina ricordiamo 100, invece dovrebbero pagina essere 162 della relazione della Banca d'Italia. Io non so se il ministro Padoan schioppa. È come dire un'ammissione di responsabilità. Beh, è una denuncia, io devo intervenire, è il mio dovere. Ovviamente il ministro Padoan, perché ne abbiamo evocato un altro che non era da evocare, no? Le è venuta un refuso, ha detto Padoa-Schioppa. Quindi abbiamo capito chiaramente. Il ministro Padoan evidentemente non ha letto la relazione annuale della Banca d'Italia, ma lui quando polemizza si riferisce ai debiti pregressi della pubblica amministrazione, cioè quelli prima dell'entrata in vigore della direttiva. Della loro norma, certo. però. Ma io mi dico, la procedura di infrazione riguarda la nuova norma, quindi non c'entra nulla. Che portata ha una procedura di infrazione, commissario Tajani? Che conseguenze ha? Anche perché se sono così arrabbiati, appunto, c'è anche da dire che ormai le elezioni sono superate, per cui non è neanche più campagna elettorale. Ecco, una procedura di infrazione. Adesso il governo italiano credo abbia qualche settimana di tempo per rispondere. Due mesi di tempo per rispondere, poi dopo ci sarà un altro intervento, il parere motivato, dopo l'Italia avrà altro tempo per rispondere, dopodiché la Commissione, se l'Italia non darà risposte soddisfacenti, cioè non avrà cambiato la situazione, cioè le imprese non verranno pagate nei tempi previsti dalla legge, si andrà alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia prenderà una decisione e qualora non venga rispettata dall'Italia la decisione ci sarebbe una multa, ma il mio intervento non è finalizzato a far pagare la multa all'Italia, il mio intervento è a tutela delle imprese e dei lavoratori, perché l'avvio della procedura di infrazione, che segue già una serie di lettere, di messaggi che si chiamano UPAR, cioè di avvisi, che non sono stati ottemperati dall'Italia. Sì. Bene, questo permetterà all'Italia di cambiare la situazione e quindi anche di risparmiare denaro. Perché? Perché la direttiva comunitaria recepita con legge della Repubblica Italiana dice che ogni pubblica amministrazione che non paga entro 30 giorni, dal 31esimo giorno deve pagare una mora dell'8 certo. oggi 15%. Quindi questa lettera di messa in mora aiuta l'Italia, permette all'Italia di risparmiare denaro, permette all'Italia di modificare la situazione e quindi anche di far licenziare qualche lavoratore in meno. Ecco, infatti, commissario Tajani, la ringrazio per essere stato con noi, il tempo corre, dobbiamo salutarla, ma abbiamo capito chiaramente e perfettamente appunto lo spirito dell'iniziativa che arriva dall'Europa. Grazie. Ci ritrovati in diretta, beh certo che abbiamo scelto una musica particolare per accompagnare il primo approfondimento di questa seconda parte di Focus Economia. Si riunisce stasera attorno alle 20 ora italiana il Federal Open Market Committee, che è l'organo esecutivo di politica monetaria della Federal Reserve, la banca centrale americana. Cosa potrebbe succedere stasera? Potrebbe arrivare una nuova riduzione del programma di acquisto di titoli di Stato e obbligazioni, stiamo parlando di quello che ormai in gergo finanziario conosciamo come tapering. L'alleggerimento degli acquisti è iniziato lo scorso gennaio, c'è quindi questa graduale riduzione degli stimoli monetari dagli Stati Uniti. Prima la Federal Reserve era impegnata ad acquistare mensilmente 85 miliardi di dollari di titoli di Stato, bond ipotecari, progressivamente appunto si è scesi fino agli attuali 45. Chissà se questa sera Janet Yellen deciderà per un'altra sforbiciata. Lo chiediamo al corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, Mario Platero, che salutiamo. Mario, buonasera. Eccoci, buonasera Deborah. E allora, ma cosa dunque, ci aspettiamo, sì, dalla signora Yellen? Ma guarda, Deborah, io credo che la Federal Reserve procederà con un altro taglio di 10 miliardi di dollari di acquisti mensili e quindi scenderemo dai 45 che tu hai menzionato ai 35. Chi ritiene, non sapremo mai che cosa, forse chi ritiene che possa anche essere fatto un taglio dei tassi di interesse, forse stasera andrà deluso. Questa è una misura che potrebbe essere presa solo se si concretizzassero determinate condizioni, come per esempio una forte marcia in avanti del mercato del lavoro. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Io faccio come prima con Tajani, meno il camperlaia, quindi vi tengo un po' di compagnia con qualche chiacchiera prima di andare avanti anche magari con altri due approfondimenti che abbiamo in programma, perché vorremmo tornare su un caso di borsa che prima ci ha segnalato anche Chiara De Cristofaro di Radio Cori, il Sole 24 Ore, cioè il caso Mediaset. Titolo oggi ha avuto un rialzo del 2%, ma c'è fermento per quello che riguarda le attività spagnole, delle quali stiamo parlando da molto tempo. Cercheremo di capire qual è l'importanza anche di questa operazione, che appunto potrebbe finalizzarsi al più presto con la nuova offerta del gruppo Telefonica, appunto, che è arrivata nelle ultime ore. Vorremmo anche tornare a parlare di Argentina, ma noi, sai che ti dico, facciamo che ce la facciamo forse. C'è Valerio Rocchetti che mi sta facendo i segnali di fumo. Mario, ce la facciamo? Mario Platero. Eccoci, rieccoci. Scusate, è caduta la linea, come ogni tanto succede, nonostante siamo nell'era dell'internet avanzata. È vero. Ma devo dire che Chi si preoccupa del fatto che l'economia americana sia stata un po' in flessione, anzi in flessione marcata nel primo trimestre, e che dunque immagina che la Fed possa essere più prudente, ecco, secondo me sbaglia. Vedremo poi cosa succederà alla prova dei fatti. Ma io anche perché dobbiamo ricordare che questo arresto del PIL è stato determinato dal maltempo, non era poi una circostanza così straordinaria che si verificasse negli Stati Uniti, magari neve più forte del solito e gelo un po' più intenso del solito, ecco. Sì, esattamente, c'è stata una paralisi dovuta al freddo, c'è stato anche un piccolo rallentamento nel settore per esempio immobiliare, che è stato uno dei settori chiave per il traino della ripresa. Ci sono stati altri rallentamenti, per cui è stato un insieme di combinazioni, ma diciamo che l'economia americana continua ad andare bene, l'occupazione continua a crescere, e dunque io credo che la Federal Reserve alla fine esprimerà più che altro, è questo che ci attendiamo, esprimerà un giudizio sulla tenuta della ripresa americana. E questo giudizio avrà più un impatto sulla decisione della Fed di mantenere ad oltranza i tassi di interesse sui fondi federali, quindi il Fed Fund a livello tra 0 e 0,25% fino all'inizio del 2015, oppure se spostare questa tenuta un po' più in là. Quindi sono due momenti diversi. Io credo che continueranno a confermare la linea del taglio, e quindi il tapering, come tu stessa dicevi, è cosa che poi tra l'altro, ma no, è che tutti dicevano, beh, quando la Fed comincerà a diminuire questi suoi acquisti, ci saranno dei rimbalzi forti sul mercato, la borsa cadrà, ci sarà un problema di tassi di interesse, ci sarà un rimbalzo dei tassi di interesse, invece tutto questo non è successo, quindi direi che dal punto di vista monetario la Federal Reserve può dire che il tapering è stato condotto in un contesto di soft landing, di atterraggio morbido quasi perfetto. Quindi diciamo la gradualità in questo caso sta facendo in modo che la borsa, il mercato obbligazionario non risentano di questo ritiro graduale appunto degli stimoli monetari. È chiaro Mario che se il tapering continuerà nelle condizioni in cui tu ci hai detto, quindi al massimo una nuova riduzione di altri 10 miliardi mensili, tutto questo anche alla luce delle condizioni economiche che non sono chiaramente così rallentate come qualcuno teme, ma comunque qualche piccolo segnale di un po' stasi, di tranquillità c'è, è chiaro che tutto questo rinvia e procrastina di molto anche un riavvio dell'aumento dei tassi di interesse. Sì, ecco, la Fed è sempre stata molto rassicurante sul fronte dei tassi di interesse, per cui ha dato varie scadenze, inizio 2015, poi forse metà 2015, forse i primi mesi del 2015, forse, chissà, diciamo che si tiene una porta aperta e ampi margini di manovra, e d'altra parte prima o poi bisognerà compiere anche quest'altro passo, anche perché devo dire che proprio ieri abbiamo avuto dei dati sull'inflazione che per la prima volta sono stati un po' rassicuranti, e uso un termine che può sembrare contraddittorio perché in genere quando l'inflazione rimbalza non è mai rassicurante. Ma sia in America che in Europa, come tu sai, il timore oggi è più per la deflazione che per l'inflazione, e mentre invece ieri abbiamo visto un tasso su base annuale attorno al 2%, quindi sempre al di sotto del target della Fed che è attorno al 2,5%, ma pur sempre al di sopra di tassi di inflazione che avevamo visto, certo, che avevamo visto prima. Quindi a un certo momento dovrà succedere anche quello, ma sai, d'altra parte il ciclo americano è in fase di ripresa ormai da vari anni, dunque un momento di pausa forse è inevitabile, come succede normalmente in tutte le economie. Grazie a Mario Platero da New York. Buona serata Mario. Grazie a te, minuti di tempo, ci dobbiamo tenere dentro due argomenti molto interessanti e andiamo subito al primo. Simone Filippetti del Sole 24 Ore ci racconta un po' questa operazione di Mediaset in Spagna che deve cedere la Pay TV e si è fatta avanti Telefonica. Qual è l'importanza di questa operazione, Simone? Sì Deborah, in realtà ancora è tutto da decidere, nel senso che l'unica cosa sicura è che la spagnola Telefonica, che è la più grande compagnia di TLC in Spagna, ma è anche un importante player in Italia, visto che è azionista indirettamente di Telecom Italia. Esatto, Telco, Telco, quindi, che è la holding che controlla Telecom, ok? Ha messo sul piatto 350 fino a 355 milioni di euro per comprarsi il 22% che Mediaset detiene nella società chiamata Digital Plus, che è una sorta di Sky di pay TV spagnola. L'importanza è che se Mediaset accetta questa offerta, di fatto Telefonica si prende il 100% e diventa padrona di questa pay TV. Mediaset può o accettare oppure provare a rilanciare per prendersi lei tutta la pay TV. Come mai tutto questo interesse attorno a questa, esatto, società? Esatto, quello che volevo chiederti, l'ha messa in vendita loro perché non serve più, oppure è proprio un gioiellino sul quale hanno messo gli occhi in molti? È stata messa in vendita in realtà da un terzo soggetto che si chiama Prisa, che è un conglomerato editoriale spagnola, che in realtà va molto male, ha molti problemi perché ha tantissimi debiti ed è sull'orlo del dissesto, e le banche l'hanno costretta a vendere più o meno l'argenteria di famiglia. Ora, Digital Plus è un'argenteria che brilla a metà perché ha molti abbonati, però i conti sono un po' traballanti, quindi chi se la prende poi dovrà mettere altri soldi per risanarla. Però il vero asset, quello che fa gola, è il mercato delle pay TV, perché come oggi vedi e come i mondiali ci stanno come dire, no? Facendo vedere la questi giorni, anche per i diritti in Italia, certo. Sì, come dire, il calcio e la TV a pagamento sta ormai diventando il futuro dell'industria televisiva. La televisione, quella gratuita a cui tutti siamo stati abituati, sta un po' diventando un settore marginale. Quindi se Mediaset vende, da una parte incassa, quindi fa una bella plusvalenza, 300 milioni, però dall'altra esce da un intero industria, da un intero paese. Quindi diciamo che in casa del Biscione ci stanno riflettendo un po' se finalizzarla, concluderla l'operazione. Sì, bisogna, come dire, è quello che gli analisti chiamano un trade-off, quindi se vendo in casso e quindi ho un gruzzoletto, magari da utilizzare per i diritti della Serie A che stanno andando in asta in questi giorni, quindi rilanciare e battere Sky, oppure dire no, meglio rimanere in Spagna, mettere un piede, avere un piede in un altro paese e quindi essere presenti in più aree, diciamo, certo, europee. Tu che la vicenda la stai seguendo da tempo, secondo te verso quale direzione propenderà Mediaset? Ma io, il nostro giornale l'ha già scritto, la mia idea è che loro venderanno per incassare, probabilmente concentrarsi, perché se Mediaset riuscisse a strappare anche i diritti della Serie A, avrebbe nei prossimi anni sia Champions sia Serie A, e questo costituirebbe un grosso asset da rivendersi sul mercato, essere esclusivisti di entrambe le maggiori competizioni calcistiche, diciamo, continentali. Simone, grazie per essere grazie stato con noi. Adesso dall'Italia, dalla Spagna, dobbiamo toccare un altro tema che ha in qualche maniera qualche colore un po' spagnolo, iberico. In realtà dobbiamo andare adesso in Argentina. Chigava. Argentina, della quale abbiamo di nuovo parlato tanto in questi giorni, Sebastiano Barisoni l'ha fatto con tanti ospiti negli ultimi due giorni, soprattutto dopo che lunedì la Corte Suprema americana ha deciso che Buenos Aires, il governo di Buenos Aires, dovrebbe versare entro addirittura la fine di questo mese, entro il 30 giugno, a dei fondi speculativi, agli hedge fund che non hanno aderito alla ristrutturazione dei titoli di Stato coinvolti, lo ricorderete bene molti di voi, nel default del 2001 appunto, e che causò perdite fra il 70 e il 90% agli investitori coinvolti. Quanto dovrebbe versare Buenos Aires? $1.3 miliardi. Ieri alla TV argentina è apparsa appunto con un discorso su questa vicenda la presidente Cristina Kirchner, un messaggio alla televisione nella quale ha definito un'estorsione il verdetto della Corte americana. Roba da hedge fund, mica tanto, perché questa vicenda potrebbe riaprire anche la piaga italiana. Lucilla Incorvati del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Deborah. Eccoci qua, allora ritorniamo a parlare di questo default nel 2001, quante trasmissioni abbiamo fatto, tu te lo ricorderai, sì. Lucilla, appunto su questo argomento, una vicenda che complessivamente il crack argentino fu di quasi 100 miliardi di dollari, 95, sì. In Italia, l'Italia pagò forse uno dei, come dire, prezzi più cari. Sì, sì. Noi abbiamo avuto, diciamo, moltissimi risparmiatori, migliaia di risparmiatori che sono stati ingabbiati in questa vicenda, soprattutto perché quei bond vennero venduti negli anni in cui appunto le obbligazioni avevano dei rendimenti molto alti e quindi chiaramente erano abbastanza appetitose. Esattamente. Allora, 14 miliardi di dollari appunto, ecco l'importo, sì, degli italiani coinvolti, 450 mila investitori che in questi anni si sono presi però le loro decisioni, no? Perché sì, non è che sono rimasti lì ad aspettare. Sì, che diciamo che per dare qualche numero, una buona parte, quindi il 92% di questi risparmiatori hanno rinegoziato trattando con le due offerte del 2005 e del 2010. C'è poi un gruppo consistente che comunque ha aderito a Task Force Argentina, questo consorzio creato da ABI che ha dal 2005 in avanti attivato questo lodo sul quale si saprà qualcosa proprio, esatto, tra qualche breve settimana. Però vorrei ricordare che sono moltissime le cause civili in corso, esatto, nei tribunali tra i risparmiatori e contro le banche, esatto, esatto, che hanno praticamente venduto loro, che hanno fatto sottoscrivere queste obbligazioni all'epoca. Allora, la vicenda, la decisione della Corte Suprema americana, sì, di dire agli hedge fund che non hanno aderito a nessuna ristrutturazione che è stata fatta, voi comunque avete il diritto di vedervi restituire 1.300 milioni di dollari, che prospettiva apre per gli italiani? Che legame c'è fra queste due vicende che sembrano apparentemente così lontane? Sì, beh, allora il primo fatto, diciamo così, immediato è che questo potrebbe scatenare un default e quindi l'impossibilità da parte del governo di Buenos Aires di dar seguito a quelle obbligazioni rinegoziate, quindi coloro che già hanno avuto una perdita, dicevi bene tu, del 70 ma anche più alta, dell'80%, si ritrova quindi con delle cedole che non vengono pagate e quindi ancora una volta con dei titoli che non valgono pressoché nulla. Se così non fosse, quindi come noi tutti ci auguriamo che Buenos Aires non vada in default e quindi continui a pagare regolarmente, come appunto ieri ha dichiarato il presidente, nulla cambia. Diverso è il discorso laddove appunto una impossibilità a pagare da parte dello Stato possa riaprire per tutti coloro che hanno rinegoziato il debito, ma anche per coloro che hanno aderito a Task Force, un'azione nei confronti degli intermediari, perché ricordiamoci che nel 2011, quindi esattamente 10 anni dopo il default, sono scaduti i termini di prescrizione per agire nei confronti dell'intermediario. Anche se qui ci sono c'è nuove tutta scuole, una partita di interpretazioni, esatto, esatto. C'è chi sostiene che in realtà questa data di decorrenza non sia il 2011 ma sostanzialmente il 2015, perché nel 2005 che c'è stata la dichiarazione totale da parte dell'Argentina di non poter pagare, quindi il vero default, e quindi tutti sostanzialmente potrebbero ancora, hanno ancora un anno e mezzo direi abbondante per poter agire. Certo che se per non saperne leggere né scrivere, come si dice, comunque magari provarci. Esatto. se ci sentisse l'ABI. Esatto. Poi c'è tanto un'apertura nuova che è proprio recentissima, sulla quale noi abbiamo scritto tanto e sperando appunto di dare un aiuto ai nostri lettori, che è una recente sentenza della Cassazione che si è espressa su i bond Cirio. Lì viene stabilito un principio di solidarietà passiva tra la società emittente, in questo caso l'Argentina, e l'intermediario. Sì. Quindi c'è una responsabilità in solido. In virtù di questo, dicono gli esperti che abbiamo sentito, ci potrebbe essere quindi un'estensione del principio anche ai casi relativi ai bond argentini. Quindi noi sostanzialmente vogliamo dare un messaggio a tutti coloro che si ritrovano in un qualche modo legati a questa vicenda, di guardare bene che cosa hanno. Magari, esatto, di chiedere, perché in realtà potremmo, come dire, dare delle linee generali, ma poi all'interno di queste situazioni generiche ci sono invece dei casi individuali che forse potrebbero intraprendere un altro tipo di strada, no? Certamente. Cui Quindi questo è molto importante. Oggi peraltro, in reazione a tutte queste notizie, abbiamo avuto un nuovo crollo dei bond, appunto delle obbligazioni appunto in circolazione, che sono ai minimi da 3 mesi. Peraltro l'Argentina non è ancora sui mercati internazionali, giusto? Quindi stiamo parlando in ogni caso di mercato interno. Sì, certo. Quindi in questa situazione appunto vedremo come evolverà nelle prossime ore, perché comunque la sentenza americana è una sentenza che è definitiva, quindi ci sono degli ascoltatori che ci stanno chiedendo: non abbiamo capito che poteri abbia la Corte Suprema americana ad obbligare il governo argentino a pagare. Tu siamo in grado di creare una risposta? Diciamo, innanzitutto qui si tratta appunto di una giurisdizione diversa dalla nostra, di una regolamentazione, certamente comunque se la sentenza, questa della Corte americana, è una sentenza già definitiva, perché c'era stato un appello, cioè lo Stato argentino aveva fatto appello ad una sentenza precedente, a una pronuncia precedente, quindi questa è veramente definitiva. Penso che qui la soluzione sia una soluzione, come dire, sovranazionale, probabilmente degli accordi sono americani. Allora, noi abbiamo terminato, Lucilla. Niente, questa storia ormai ce la trasciniamo da 13 anni e ancora forse fra una quindicina d'anni rifaremo questa trasmissione con altre novità, con un altro presidente argentino, chissà che cos'altro ancora succederà. Grazie per essere stata con noi. Grazie una buona a voi serata. E buona serata a tutti. Grazie a Lucilla Incorvati. E noi abbiamo terminato il nostro programma. Domani ritorna, state tranquilli, Sebastiano Barisoni. Io ringrazio da Milano Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, per quello che riguarda l'assistenza tecnica, da Milano Pietro Lacorte e da Roma Valerio Rocchetti. Grazie a tutti e buona serata. Radio 24. La passione si sente.